Artisti per Patrick è una campagna artistica che abbiamo portato avanti con Volt Bologna, l'associazione In Arte, che è un'associazione appunto di artisti, Luca Coscioni e European Women for Human Rights, che è un'associazione appunto che si occupa dei diritti delle donne. Abbiamo voluto cercare di portare avanti e tenere alta la voce sulla situazione di Patrick Zaki, che è uno studente detenuto ad oggi al Cairo, e questo perché in questa situazione dove siamo nel bel mezzo di una pandemia, la sua situazione, che già era grave, è peggiorata notevolmente, anche perché Patrick è asmatico. Quindi quello che abbiamo chiesto è stato richiamare l'arte e cercare di fare in modo che l'arte diventi uno strumento per veicolare questo messaggio. Quindi abbiamo chiesto agli artisti di fare dei quadri e aiutarci a postarli in una pagina, in un sito web che abbiamo fatto, proprio per cercare di continuare a parlare di questa situazione, per fare in modo che le persone continuino a parlarne, perché è fondamentale per noi. Quanti sono gli artisti che hanno partecipato fino a questo momento? Ad oggi abbiamo più di 50 artisti che hanno partecipato, infatti siamo veramente veramente contenti, perché la campagna sta andando bene e soprattutto tra gli acquarellisti abbiamo riscontrato molto successo. C'è anche una pagina Facebook, Artisti per Patrick. Vedo che ci sono opere di, come dire, con molti stili. Sì, dall'acquerello al disegno alla pittura, diciamo che c'è un po' di tutto, però la cosa positiva è proprio che l'arte si è messa a disposizione per portare avanti un messaggio, e penso che per noi questo sia stata una cosa veramente fondamentale, soprattutto considerando che anche questa situazione è partita da Bologna e che Bologna è una città che usa l'arte anche per questo, per far sentire la propria voce. Domani si dovrebbe tenere l'udienza appunto che deciderà il futuro di Patrick, udienza che è stata rimandata più e più e più volte. Che idea vi siete fatti durante appunto questo periodo, che insomma la detenzione di Patrick risale a febbraio, quindi insomma questi lunghi mesi? L'idea non è purtroppo molto positiva, non siamo positivi sulla situazione, neanche sulla sentenza di domani, però riteniamo che l'unico modo sia continuare a fare in modo che questa situazione non venga dimenticata, perché non vogliamo un altro caso Regeni, e quindi l'unico modo è veramente parlarne, per fare in modo che anche le istituzioni si mobilitino ancora di più cercando di risolvere. La settimana scorsa il rettore dell'Università di Bologna, Francesco Bertini, si è mostrato anche abbastanza pessimista, perché le richieste anche dell'università e del comune per la liberazione di Patrick, anche semplicemente per la questione di salute, visto che tu ricordavi prima che è asmatico, non hanno avuto risposta in Egitto. Tu prima citavi le istituzioni, secondo te dovrebbero chiedere ancora di più? Dovrebbero sicuramente cercare, non tanto, cioè chiedere di più e urlare più forte, perché devo dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa del fatto che per la prima volta ho visto l'università schierata, e penso sia una cosa molto positiva anche in generale per il ruolo che ha l'università di Bologna, e in particolare per come hanno mobilitato tutte le sedi estere delle università. Purtroppo però in questo momento questo non basta, e lo stiamo vedendo da quanto questa sentenza è stata posticipata e quanto la situazione rimanga tuttora grave. Quindi penso che le istituzioni dovrebbero ancora di più cercare di far sentire la propria voce e cercare di trovare una soluzione, perché stiamo parlando della vita di una persona. Chiedo, per chi è all'ascolto e magari è anche un artista o comunque anche un semplice cittadino che vuole vedere le opere prodotte finora, dove deve andare? Andate sulla pagina Facebook di Artisti per Patrick, si chiama proprio Artisti per Patrick, e lì è possibile vedere tutte le opere, e anche chi non è un artista ma vuole fare un piccolo disegno, scrivere una poesia o qualunque cosa che sia inerente all'arte, lo faccia e ci aiuti a portare avanti questo messaggio per la liberazione di Patrick.